ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. La mattina di Natale. La bimbetta aveva 1 anno e 4 mesi, quando Jan Andersson di Skrolica la portò in chiesa la mattina di Natale. Katrina, la moglie, pensava che la ragazzina fosse troppo piccola per andare in chiesa e aveva paura che si mettesse a strillare, come aveva fatto alla vaccinazione. Ma il marito fece prevalere la sua volontà e, del resto, era pur sempre consuetudine portare con sé i bambini alla funzione dell'alba di Natale. Si incamminarono dunque con la piccina verso le 5 del mattino. C'era un cielo nuvoloso e cupo. Cupo come una cappa di piombo, ma non faceva freddo, anzi, l'aria era quasi tiepida e senza vento, come facilmente capita verso la fine di dicembre. Per cominciare, dovevano prendere un viottolo stretto tra i campi e i prati cintati della Skedalar. Poi dovevano seguire la ripida pista invernale che attraversa la cresta dello Snipa e soltanto dopo avrebbero raggiunto una vera strada. La grande casa a 2 piani di falla aveva luci ad ogni finestra e si levava come un faro davanti ai 3 Skrolika, che così poterono orientarsi in direzione della casetta di Borie. Là si trovarono con alcuni vicini che dalla vigilia avevano preparato le torce per farsi luce e si unirono a loro. Ogni portatore di torcia camminava alla testa di una piccola schiera di persone. I più erano silenziosi e tuttavia pieni di gioia. Avevano quasi l'impressione di camminare sotto il cielo come i re magi guidati da una stella per andare a cercare il neonato re dei giudei. Arrivati al sommo del bosco, dovevano passare davanti a un'enorme pietra che un gigante, giù a Frikerud, aveva scagliato contro la chiesa di Svarzio un mattino di Natale. Per fortuna la pietra era volata al di sopra del campanile, fermandosi lì, sulla cresta dello Snipa. Ora che i viandanti si avvicinavano, la pietra giaceva a terra come al solito, ma tutti sapevano benissimo che durante la notte era stata sollevata sopra 12 colonne d'oro e che sotto i troll vi avevano banchettato, bevuto e danzato. Non era tanto allegro passare da una pietra del genere in mattina di Natale. E Jan guardò verso Katrina per vedere se teneva ben stretta a sé la bimbetta. Katrina camminava tranquilla e serena, come al solito, chiacchierando con una vicina. Non aveva minimamente l'aria di far caso a che razza di posto pericoloso fosse quello. Lassù gli abeti erano antichi ed imponenti. E guardandoli alla luce delle fiaccole, con tutta quella neve accumulata sui rami, non si poteva fare a meno di accorgersi che molti, che a prima vista si erano scambiati per alberi, in realtà non erano altro che troll dagli occhi taglienti, sotto i bianchi cappucci di neve e dai lunghi artigli affilati che spuntavano sotto le spesse manopole innevate. Poteva anche andare finché se ne stavano tranquilli, ma pensate un po' se uno di quelli avesse allungato un braccio per ghermire qualcuno. Poteva anche andare finché se ne stavano tranquilli. Ma pensate un po' se uno di quelli avesse allungato un braccio per ghermire qualcuno che gli passava davanti. Gli adulti e i vecchi non correvano un grande rischio. Ma Jan aveva sempre sentito che i troll andavano matti per i piccoli figli degli uomini. E quanto più piccoli, tanto meglio. Gli sembrava proprio che Katrina tenesse la bimbetta con negligenza. Non ci sarebbe voluto niente per quelle grandi mani di troll munite di artigli a strapparle la bambina. D'altra parte non osava togliere la piccina dalle braccia proprio lì, in mezzo al pericolo. Avrebbe potuto essere proprio quello a far smuovere l'orda dei troll. Già si cominciava a sentire stormire e bisbigliare dall'uno all'altro fra gli alberi troll. Ci furono scricchiolii lassù tra i rami, come se cercassero di mettersi in movimento. Jan non osava domandare agli altri se vedevano e sentivano quel che lui vedeva. Avrebbe potuto essere proprio quella domanda ad animare l'orda dei troll. Nell'angoscia seppe trovare un'unica risorsa. Lì, nel bel mezzo del bosco, si mise a cantare un salmo. Jan era stonatissimo e non aveva mai cantato prima in modo da farsi sentire. Era così incapace di non stonare che non osava cantare neppure in chiesa, ma questa volta bisognava farlo. Andasse come andasse. vide che i vicini rimanevano un po' stupiti. Quelli che camminavano avanti si davano gomitate e scambiandosi occhiate, ma questo non servì a trattenerlo. Doveva continuare. Poco dopo una delle donne gli sussurrò: «Aspetta un po', Anna, vi aiuto io». E riprese il salmo di Natale con la melodia e il tono giusto. Era bello quel canto che si levava nella notte tra gli alberi, e anche gli altri non poterono fare a meno di unire le loro voci. «Sii benedetta, bella ora del mattino, che fosse annunciata dalla sacra bocca dei profeti». Allora un bisbiglio d'angoscia passò tra gli alberi troll. Essi abbassarono i loro cappucci innevati, e non si videro più i loro occhi maligni, e ritirarono gli artigli sotto gli aghi e la neve. Quando l'eco del primo versetto si spense, nessuno avrebbe mai detto che ci fosse altro che quei vecchi inoffensivi abeti al sommo del bosco. Le fiaccole che avevano illuminato la gente della Skedalar attraverso il bosco erano completamente consumate quando i viandanti arrivarono alla strada maestra, ma da lì si proseguiva guidati dalle luci dei casolari dei contadini. Quando una casa scompariva alla vista, subito un'altra brillava a poca distanza. Avevano i lumi esposti a tutte le finestre per indicare ai viandanti la via della chiesa. Finalmente giunsero in cima a una collina, da dove la chiesa appariva in lontananza. Stava laggiù, irradiando luce da tutte le finestre come una lanterna gigantesca. Quando i viandanti la scorsero, restarono senza fiato. Dopo tutti i scalari e le umili finestre davanti ai quali erano passati, la chiesa sembrava così meravigliosamente grande e meravigliosamente luminosa. Quando Jan la vide, non poté fare a meno di pensare a quella povera gente in Palestina che una notte aveva vagato portando con sé un bambinello, come unica gioia e conforto. Venivano da Betlemme e dovevano andare a Gerusalemme perché il bambino fosse circonciso al tempio. Ma erano costretti a compiere di nascosto il cammino nel buio della notte, perché erano in molti a insidiare la vita del bambino. Gli abitanti della Skedalar erano usciti di casa di buon'ora per arrivare prima di quelli che viaggiavano in vettura, ma in prossimità della chiesa questi li raggiunsero. Arrivarono coi loro cavalli sbuffanti e tintinnanti sonaglierie e li superavano al galoppo, costringendo i poveri pedoni a scansarsi sui mucchi di neve ai bordi della strada. Adesso era Jan che portava la bambina. Doveva continuamente farsi da parte davanti alle vetture. Avanzare nella strada buia diventava faticoso, ma di fronte a loro si levava il tempio risplendente, e bastava raggiungerlo per essere al sicuro e al riparo. Alle loro spalle si sentì arrivare con un gran frastuono di sonagli e calpestio di zoccoli una grande slitta trainata da una coppia di cavalli. Guidavano giovani signore di pelliccia nera, con un alto berretto di pelo, e al suo fianco sedeva la giovane moglie, mentre il cocchiere stava in piedi, dietro di lui, con in mano una torcia ardente. La teneva sollevata in alto, e l'aria piegava indietro la fiamma, che lasciava un lungo strascico di scintille e di fumo. Jan era arrampicato sui bordi innevati della strada, con la bambina in braccio. Era evidentemente una posizione pericolosa, infatti un piede gli affondò improvvisamente nella neve facendolo quasi cadere. Il giovane signore che conduceva la slitta tirò forte le redini e gridò gentilmente a quelli che aveva costretto a scostarsi dalla strada: «Date qui quella bambina. Può venire in slitta con me, fino alla chiesa. È pericoloso camminare con un piccino in braccio quando ci sono in giro tante vetture». «Grazie», rispose Jan Andersson. «Ma va bene così. La metteremo seduta in mezzo a noi, Jan», insistette la giovane signora. «Grazie, ma può andar bene lo stesso». «Davvero? Proprio non ti fidi a staccarla da te», esclamò il signore della vettura e passò oltre, ridendo. Così i viandanti proseguirono, ma il loro viaggio si faceva sempre più pericoloso e penoso. Arrivava una slitta via l'altra. Non c'era un cavallo in tutto il circondario che non fosse in moto in quel mattino di Natale. «Avresti potuto lasciare che prendessero loro la piccola», disse Katrina. «Ho paura che caschi con lei». «Avrei dovuto lasciar prendere la bambina». «Ma non sai quel che dici? Non hai visto chi era?» «E che pericolo c'era lasciarla viaggiare con il padrone della ferriera di Duvnas?» Jan Andersson di Skrolika si arrestò di colpo. «Era il padrone della ferriera di Duvnas?» chiese, e sembrò che si fosse svegliato da un sogno. «Certo che era lui! Chi credevi che fosse?» Già, dove si era smarrito Jan con i suoi pensieri? «Sì. Che bambino era quello che aveva portato nel suo cammino? Dove era diretto? In quale terra aveva mai camminato? Si stropicciò la fronte con la mano e apparve un po' confuso quando rispose a Katrina. Credevo che fossero il re Erode di Giudea ed Erodiade, sua moglie. La calastina. Quando la bimbetta discrolica aveva pressappoco 3 anni, ebbe una malattia che doveva essere proprio scarlattina, perché era rossa in tutto il corpo e bruciava come il fuoco quando la si toccava. Non voleva mangiare nulla né poteva dormire. Stava soltanto sdraiata e delirava. Finché fu malata, Jan non fu in grado di uscire di casa. Restava seduto lì, giorno dopo giorno, al punto che si aveva l'impressione che la segala di Eric di Falla non sarebbe stata trebbiata quell'anno. Era Katrina che curava la piccina, che la ricopriva ogni volta che lei gettava via la coperta, che le dava da bere succo di mirtillo diluito, chiesto in prestito alla padrona di Falla. Quando la bimbetta stava bene, era per lo più Jan che si occupava di lei, ma dal momento che si ammalò, non osava neanche avvicinarsi per il timore di farle del male e di non trattarla con la dovuta cautela. Però non usciva dalla casetta. Stava nell'angolo, presso il focolare, e da lì fissava la malatina. Clara Gulla stava nel suo lettino, ma sotto non aveva che qualche pagliericcio senza nessun lenzuolo. Era ben duro e penoso per il corpicino delicato, sensibile dagli sintomi come al gonfiore, giacere su quella rozza tela di sacco. Cosa strana, ogni volta che Jan vedeva la bimba rigirarsi nel suo lettino, non poteva impedirsi di pensare a ciò che di più fine possedeva al mondo, la sua camicia della domenica. Non ne aveva che una, di lino candido, con lo sparato rigido. Era così ben cucita che sarebbe andata bene anche per il padrone della ferriera di Duvnas, e Jan la teneva di gran conto. Gli altri vestiti che usava erano di stoffa altrettanto grossolana delle fodere dei pagliericci su cui giaceva la bimbetta. Ma era davvero insensato pensare a quella camicia. Katrina non avrebbe mai e poi mai consentito che egli la rovinasse, perché era lei che gliel'aveva data come regalo di nozze. Katrina faceva comunque tutto quel che poteva. Prese in prestito un cavallo da Eric di Falla, avvoltolò la bimbetta in scialle e coperte e la portò dal dottore. Ed era proprio ben fatto da parte di Katrina, ma Jan non ne vide alcun beneficio. Non venne nessun miglioramento dal grande flacone preso dal farmacista, né da nessun'altra delle ricette del dottore. Forse era questo. Non si poteva conservare un dono così straordinario come la bimbetta se non si era pronti a sacrificarle ciò che si aveva di meglio. Ma non era tanto facile farlo capire a una persona come Katrina. Un giorno, mentre la bambina era malata, arrivò la vecchia Karin la Finnica. Era una donna che sapeva guarire le malattie degli animali, come tutti quelli della sua razza, e aveva anche una certa disposizione a scongiurare dissenterie e ascessi e morsicature maligne. Per altre malattie non era il caso di rivolgersi a lei, e d'altra parte non sembrava neanche tanto corretto rivolgersi a una fattucchiera se non per piccoli mali. Quando Karin la Finnica entrò nella casetta, vide subito che la bambina era malata, e Katrina le spiegò che aveva la scarlattina, ma nessuno le chiese consiglio. Che i genitori fossero angosciati e inquieti, in ogni caso, se ne era già accorta da sola, e dopo che Katrina le ebbe offerto il caffè e Jan un rotolo di tabacco, la vecchia disse di sua iniziativa: «Guarire questa malattia è al di là dei miei poteri, ma posso insegnarvi ugualmente un metodo per sapere se porterà alla vita o alla morte. State svegli fino a mezzanotte. A quell'ora congiungete l'indice e il mignolo della mano sinistra come un occhiello e guardate attraverso quello la piccina. Fate allora attenzione a chi vedrete stare al suo fianco nel letto e saprete cosa vi dovete aspettare». Katrina la ringraziò gentilmente, perché è sempre meglio essere in buoni rapporti con gente del genere, ma neanche per un attimo pensò di seguire il suo consiglio. Neppure Jan diede alcun peso alle sue parole. Non pensava ad altro che alla sua camicia, se soltanto avesse osato. Ma non era proprio possibile chiedere a Katrina di fare a pezzi la camicia delle nozze, e non sarebbe stato certo quello che poteva far migliorare la bimbetta, lo capiva bene. E se lei comunque fosse morta, sarebbe stato uno spreco inutile. Quando fu sera, Catherine andò a coricarsi alla solita ora. Jan, troppo agitato per dormire, rimase seduto, come al solito, nel suo angolo. Vedeva Clara Gulla che giaceva sofferente sopra quella tela troppo ruvida, troppo dura per il suo corpicino. Pensò che sarebbe stata una tale gioia prepararle un letto fresco, morbido e liscio. La camicia, appena lavata e non ancora messa, stava nella cassa dei vestiti. Gli faceva male saperla là. Ma non era neppure peggio per la sua stricatina trasformare il suo regalo in un lenzuolo per la bimbetta. Comunque fosse, quando l'orologio fu vicino a mezzanotte e Catrina dormiva nel suo sonno più profondo, Jan andò alla cassa e tirò fuori la camicia. Prima ne strappò lo sparato rigido e poi la divise in due parti. Una la infilò sotto il corpicino, l'altra la distese tra la bimba e la calda, spessa trapunta che la copriva. Poi scivolò di nuovo nel suo angolo, a vegliarla, come prima. Non era lì da molto tempo, quando l'orologio batté le 12. Quasi senza pensare a quel che faceva, Jan congiunse davanti all'occhio le dita della mano sinistra come un anello e vi guardò attraverso. Ed ecco, sul bordo del letto sedeva nudo un piccolo angelo del Signore. Era tutto graffiato ed escoriato dalla rozza tela del pagliericcio e aveva certamente l'intenzione di andarsene. Ma ecco che si era voltato. Si era accorto di quella fine camicia e si era messa ad accarezzare il lino con tutte e due le mani. Poi d'un tratto aveva ritirato sulle gambe e si era sdraiato di nuovo per vegliare sulla bambina. Intanto, su una gamba dell'elso, si arrampicava una cosa sinistra e nera. Quando vide che l'angelo del Signore stava per andarsene, sporse il capo dalla testata e ghignò di gioia al pensiero di scivolare nel letto al posto suo. Ma quando vide l'angelo del Signore riprendere la sua veglia, si contrasse in uno spasimo, come se soffrisse le più atroci pene dell'inferno, e strisciò di nuovo, via, verso il pavimento. Il giorno dopo, la bimbetta era in via di guarigione. E Catrina ne fu così lieta che non ebbe cuore di dir nulla della camicia delle nozze rovinata, anche se si può star sicuri che era ben convinta di avere per marito un pazzo. Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.